ci siamo. Bene. Allora, buongiorno a tutti. Noi stiamo considerando adesso il capitoletto 35. Vedo qui dei posti vuoti, cercate di essere assidui in questa fine di corso. È importante perché avete seguito sempre. Ecco, adesso la signorina si mette lì in mezzo, così quel brutto vuoto lo è. Quindi dite ai vostri compagni, non degli appunti, appunti, no. Capito? Degli appunti, no. Capitolo 35, ecco, vedi che si è riempito un po', insomma, giustamente stava dall'aria aperta. E siamo nel salotto di Madame d'Ambrose, ma un'osservazione che volevo farvi preliminarmente è questo. La grandezza di questo romanzo, che come tutte le cose grandi naturalmente si scopre sempre più nel corso del tempo, nel corso ci si ritorna, è proprio questa fine affannosa e disordinata, in cui sostanzialmente i problemi sentimentali vengono schiacciati dal problema del danaro. Ecco. Dice Flaubert, in un punto mi pare della Bovary, dice quanto segue: di tutte le tempeste che si possono abbattere su un matrimonio, le peggiori sono quelle finanziarie. Sono quelle finanziarie. Agli inizi, ricordate, il problema del danaro era un problema toccato naturalmente, ma tangenzialmente lui doveva operare, Frederick, per recuperare un'eredità da parte di un suo zio, di un suo parente, insomma. E poi però erano tutti i giovani personaggi erano pieni di sogni, di speranze, e si creava insomma questa aspettativa dell'amore. A un certo momento è una tragedia per fatti di soldi, e siccome è molto complicata in effetti la fine dell'educazione sentimentale, vi posso dire che qui è veramente ormai una specie di, che dite, se io stacco questa cosa qua, no, voi sapete cosa volevo fare? Io volevo vedere se stacco un caso soltanto. Siccome alle pile, però non funziona? No. Questa vuol dire che le pile si sono consumate. Le pile si sono consumate. Vediamo un po'. Che pazienza! Si potrebbe anche fare. Si mette la sedia qua, riesce a metterla avanti. Ecco. Che perché il problema è quando lei parla davanti alla cassa. E allora che devo fare? Secondo me si mette la sedia qui e sposta, non so, il registratore qua avanti, forse si sente meglio. Se vuoi ci penso io adesso. Così. E dove? E la tiene per quello e le parla lateralmente, sì. Secondo me si dovrebbe sentire. Poi non so, non c'ho conoscenza da poco, però. Mettiamo qui? Sì. E io dove vado poi? La grave. Quindi. L'altro, certo? No. Possibile per motivi, però è bellissimo quello me l'ha detto, un po' più basso, me l'ha detto come a un bimbo che ammonisci nel non fare certe cose. Adesso così dovrebbe andare bene, quindi, perché non so se avete capito ormai che io avevo bisogno di camminare, avete capito? Sì. Se stessi seduto lì, bisogno di camminare, cioè c'è una certa natura teatrale, avete notato anche questo? L'ha notato? quando era giovane, dico una cosa, guarda, vi dico un segreto? Vi dico un segreto? Ho fatto l'attore. Era un segreto, però, cioè, calcavo i palcoscenici, ho fatto molte cose, ma fra cui quella. Forse non penserete, ma come mai così timido ha fatto l'attore? Affrontavo il pubblico con la luce negli occhi. Ma ero giovanissimo. Va bene, vediamo un po' cosa funziona questa cosa qui. Poi il prossimo anno lo butteremo via, con la carriera, ma sono affezionato, sai, sono 350 anni. È un fatto di valore affettivo. È un fatto affettivo, è tutta la vita questa, è tanto affettivo e tutto. Dunque, noi torniamo a Novotone. E allora dicevo, sostanzialmente vi sono prestiti, debiti, odi conseguenti quando i soldi non vengono restituiti, e alla fine vedremo, in questo giro di prestiti e debiti, vedremo che qualcuno soccombe. Chi soccombe? Soccombono gli Arnù. In questa vicenda di prestiti e debiti ci sono due punti che considereremo con attenzione. In questa vicenda noi vediamo che Frederick naturalmente fa di tutto per aiutare, apre un po' la porta di là perché veramente si soffoca, apri un poco di più, grazie, fa di tutto per aiutare Madame Arnoux. Ecco. Allora è qui il punto che vorrei affidare alla vostra sensibilità. Cos'è? È generosità sua? Ecco, non è esattamente generosità sua, è un atteggiamento, come dire, disperato ed egoistico al tempo stesso. Ecco. Quello del bambino, potremmo dire, che è disposto a qualsiasi cosa perché il suo oggetto di desiderio, la mamma o che altro, non gli venga tolto. Ecco. Questa non bontà di Frederick è molto importante e Flaubert la mette in evidenza, cioè vuol far vedere che lui non è un buono, è semplicemente uno che disperatamente e in modo balordo cerca di fare il proprio tornaconto. Adesso qui siamo nella descrizione della scena del salotto di Madame d'Ambrose, e i motivi per cui Madame d'Ambrose cede in qualche modo a Frederick sono molto semplici. È giovane, ma lei ha bisogno di qualcosa di nuovo. Ecco, infatti, il capitoletto 35, mi pare che l'abbiamo intitolato Voleva un grande amore. Perché Madame d'Ambrose il danaro l'aveva, aveva la stima sociale, aveva tutto, però non ha l'amore. E quello che uno non ha, come sapete bene, diventa spesso il grande desiderio della propria vita. No? Tu non sei diventato, ambasciatore, diceva Stendhal, quello che vuoi soprattutto è il cordone dell'ambasciatore. Insomma, uno che cosa vuole? Quello che non ha. E qui è l'ipotesi, l'invenzione, come più volte vi ho detto, di Dio. Che cos'è Dio? Dio è ciò che uno non ha. Tu puoi avere i miliardi, puoi avere tutto. Possiamo ipotizzare seriamente che sia felice Silvio Berlusconi? No, non possiamo ipotizzare. Eppure è uno che ha tutto. Possiamo ipotizzare che la moglie di Silvio Berlusconi, che ha una pensione, a quanto avete letto sui giornali, 300.000 euro mensili. Allora io faccio una domanda a una ragazza che è in buona condizione sociale, forse ottima, che è Valentina, come si sentirebbe ad avere 300.000 euro mensili? Ma vi rendete conto? La vostra casa sarà di 90 metri quadri, 100 metri quadri, no? La sua casa, il Machello, è di 15.000 metri quadri. Ma è felice? No. È un qualcosa che manca. E a Frederick che cosa manca? A Frederick manca una, una, una sorta di stabilità affettiva. E quindi sono insieme, intrappolati in questa ricerca di felicità in cui nessuno in realtà può dare all'altra la felicità. E qui c'è una tetra autopersuasione che sono felici. Lui, la più squisita di queste dolcezze, dice in questo capitoletto 35, era di contemplare Madame d'Ambrose fra parecchie persone nel salotto. La convenienza delle sue maniere lo faceva sognare ad altre attitudini. Naturalmente lui pensa alle attitudini amorose, evidentemente, come capite, no? Ma questo altre attitudini è malizioso, ecco. E Flaubert crede moltissimo al sesso, crede enormemente al sesso e crede moltissimo all'erotismo, alla malizia, all'alludere. Lo crede perché è un personaggio sostanzialmente carnale, ma c'è anche un altro motivo, perché gli piace sghignazzare, non dimenticate mai questo fatto. Quindi dire che lui ricordava altre attitudini, con lei che se ne stava nuda davanti a lui, questo lo fa ridere. Ricordatevi che non si può comprendere Flaubert senza comprendere questa voglia di sarcasmo e di riso che si scatena su tutto. Quindi lei era conveniente. Voi avete, non so se avete mai avuto pratica di signore del bel mondo nei loro salotti, che se ne stanno con, che assumono grandi contegni di riservatezza, poi magari uno pensa alle loro personali delinquescenze, no? E qui nella fattispecie lui pensa com'è lei quando è invece nell'intimità amorosa, insomma. Così viene in mente una cosa, che uno degli errori più grandi che si fanno nella vita coniugale è quello poi di far sì che il teatro dell'intimità amorosa divenga pubblica. Cioè dirà: ma tu hai detto in quella certa situazione intima queste parole. Questo è terribile, è distruttivo. Perché l'intimità amorosa è, come dire, è una scena a sé stante e non ha a che fare con la scena sociale. Quindi il più grave errore che si possa commettere in una coppia è proprio invece di, durante la scena sociale, di dire: guarda che tu nell'intimità amorosa fai queste cose qui. Insomma, questo è distruttivo, io credo. Ecco. E lei parlava con tono freddo, già, cioè con i domestici, per esempio, è abituato a parlare in modo freddo. Le sue parole d'amore erano balbettate, come tutte le persone che sono innamorate balbettano, no? Ci sono due segni della passione amorosa che sono sempre molto interessanti. Uno è balbettare, evidentemente. L'altro è, nel momento massimo della passione amorosa, le mani che sono bollenti, e il terzo sono gli occhi. Ecco, sono gli occhi che diventano sgranati, in particolare gli occhi della donna diventano sgranati. E lei naturalmente vive questo in pubblico, questa situazione di stoppiamento. Una parte deve fare la signora per bene, dall'altra parte però è vista dal suo amante. Quanto all'amante, l'amante ha sufficiente rozzezza per abbattarsi dentro di sé della padronanza che ha di questa donna, no? Quindi dice: ma questa è roba mia. Infatti dice: ma come, io la conosco meglio di tutti voi, lei è mia. Ecco, sentite come avviene il loro incontro in questo salotto. Arrivava quasi sempre prima di lei e la vedeva entrare con le braccia nude, il ventaglio in mano, le perle nei capelli. Si fermava sulla soglia, l'architrave della porta la circondava come una cornice e aveva un leggero movimento di indecisione, battendo le palpebre per scoprire se era lì. Poi lo riaccompagnava nella sua carrozza. La pioggia frustava ai finestrini. I passanti come ombre si agitavano nel fango e, stretti l'uno all'altro, scorgevano tutto questo confusamente con sdegno tranquillo, con pretesti diversi, e gli restava ancora un'ora buona in camera di lei. È per noia, soprattutto, che Madame d'Ambreuse aveva ceduto. Ma quell'ultima prova non doveva essere perduta, una cosa meravigliosa, l'ultima prova della vita, perché, capite, a un certo punto una donna, e questo vale naturalmente soprattutto per la donna capisce che le sue chance con l'età diminuiscono. L'uomo no, perché è un porco stagionato, un uomo può, anche andando avanti nel tempo, no? A 80 anni, eccetera, ma la donna no, quindi sente che quella è l'ultima occasione amorosa della sua vita, dopodiché, parlando con persone, amiche, così, eccetera, che hanno un'età che sta avviandosi verso la maturità, usiamo questo eufemismo, insomma, si vedono come i loro occhi lucono davanti a un complimento di chi che sia, che è come se contenesse l'imbrione delle speranze meravigliose. La mia collega, credo che sia sempre la collega di cui vi ho citato, quella delle 30 prestazioni in un'estate, tornava, poi a un certo punto ha smesso di dirmi queste cose qui perché ha capito che era troppo feroce per rispondere. Mi ha detto: sono stato in tassì, e il tassista mi ha detto a un certo punto: signora, smetta di guardare, guardava nel retrovisore, smetta di guardare perché io sennò non riesco più a condurre la macchina. Guardando gli occhi andavo nel retrovisore, eccetera, e lei era ravvivata da questo complimento, come non lo sarebbe stata da 100 complimenti del marito. Il marito anziano, ma teniamo conto che tutti i mariti diventano anziani. Questa espressione, tutti i mariti diventano anziani, tutte le mogli diventano anziane, bastardo, mi hai veramente distrutto. Mi hai veramente distrutto. È proprio un tradimento all'ultimo. È un tradimento all'ultimo che è avvenuto. Provo a fare qualcosa. Questo sistema non funziona, sa? Niente, no, non c'è niente da fare. Lei ha prestato la sua opera, no, ma più di tanto non si poteva fare. Eppure era buono, no. Era bello, era. Ma l'ho usato per tanti anni, sono 300 anni che questo è il punto. Sono affezionatissimo. Infatti non si può fare. Non si può ucciderlo. No. L'idea di una colletta in futuro, bene, 5 euro a testa, 10, cioè, con promessa di un bel voto all'esame. Guardate che ci si può stare. 10 euro se fate il conto con un uomo, era un piccolo. Ma sapete perché mi interrompo? Sapete qual è il motivo che mi interrompo? Non solo per esprimermi in libertà, ma anche perché non bisogna mai prendersi troppo sul serio. Quindi anche quando uno fa una lezione su cose così alte, deve rendersi conto che siamo circondati dalla vita reale. Capite? Ecco, questo è il punto. A proposito, bisogna chiudere un po' quella finestra, vedo degli stronzi che si stanno affacciando. Cosa? Poi si riapre. Poi si riapre, hai ragione. E allora come l'ho detto? C'è qualche testa di cavolo per fare matti. Io sono bloccato, sono entrato in uno stadio di tilt. Probami. Sono bella monachese pure. Io stanco, vedo un po'. Torniamo qua, speriamo di non rompere la climax, la sala. Allora, lui entra e la vede, lui è prima nel salotto e la vede, e lei ha le braccia. Guardate questa sequenza, il ventaglio in mano e le perle dei capelli. Andiamo a retro. Le perle dei capelli denotano naturalmente la condizione sociale. Perle, mica perle, eccetera. Insomma, voglio vedere se Adriana porta le perle nere nei capelli, diamanti nei capelli, ma no, è difficile questo, sarebbe anche un po' strano. Le perle nei capelli, poi cosa aveva? Il ventaglio in mano, ecco, il ventaglio è naturalmente dei tempi, ma non è solo questione dei tempi, è proprio perché lei è una signora, un signore e fa tutto naturalmente, è la moglie di un banchiere, insomma, capite? Ma la cosa fantastica, dove c'è la tutta la sensualità di Flaubert, è quella prima cosa, piccola, piccola, che cosa attirano? Attirano le sciacquette seminude o attira la signora maestra di cui vedi le mutandine mentre sale sulla scala? È la seconda cosa che attira. E quindi aveva le braccia nude, guardate questo assinetto, che è una parte per il tutto, ma dicendo braccia nude tu hai espresso una sensualità debordante. Lui vede queste cose qua. Sarebbe interessante, se uno volesse stare sulle parole, sapete che uno su una frase potrebbe starci e accompagnare e lasciare che la frase ti accompagni tutta la vita, se ama la letteratura. Guardate la sequenza, prima ha messo il sesso, le braccia nude, poi ha messo il ventaglio, la connotazione sociale, e poi il lusso, come per dire che la cosa che l'aveva attirato di più poi, al postutto, non erano le perle, non era la connotazione sociale, ma era il fatto che fosse ancora una gran bella donna, insomma, ecco. Oh, e poi che succede? Entra lì e sta ferma come in un quadro, la cornice, sì, l'architrave della porta, come se questa donna fosse un quadro, cioè lui la vede in una bellezza, come dire, lontana. Ma fate caso, facciamo un'osservazione strafine, che non vede mai la donna in modo, lui Frederick, in modo normale. O è un quadro, Madame d'Ambreuse, o è una persona inattingibile, Madame Moreau, neanche quadro, lontano, o una mignotta, cioè, ma non c'è un rapporto, come dire, un rapporto normale, non c'è un rapporto normale in cui consideri la persona nella sua ricchezza. Cerchiamo di trarre una conclusione. Come se in questa ottica grandiosa, flaubertiana, l'amore potesse essere soltanto verticalità dura ed estraneità. Verticalità dura ed estraneità. E probabilmente diciamo anche un'altra cosa, che l'amore che non sia verticalità dura ed estraneità interessa assai poco la letteratura. Insomma, un amore tranquillo, un amore di corrispondenza, di colloquio, non interessa la letteratura. Oh, a questo punto lei lo riaccompagnava. Ah, aspetta, no, altra cosa. E lei se ne sta battendo le palpebre, possiamo immaginare, perché socchiudeva gli occhi per vedere meglio, perché era miope forse, no? E tra l'altro questo è bellissimo, bellissimo, perché è la donna già di una certa età che sta diventando, che ha qualche problema agli occhi, no? Ecco, e poi che cosa fa, diciamo la verità? Questa è una cosa bellissima. Quando tu entri in un ambiente dove c'è l'oggetto d'amore, tu sai che c'è l'oggetto d'amore, la prima cosa che fai è che, sia pur pudicamente, lo cerchi con lo sguardo. E se c'è un ampio pubblico intorno, tu lo cerchi in silenzio e ansioso, con lo sguardo per sapere se è lì, se è arrivato. La distanza è un elemento di grande significato nella dinamica amorosa. Intendo dire che è importante nella misura in cui c'è la distanza, perché la distanza è quella che ti consente l'attrazione. Senza distanza, niente attrazione. Capite? Quello che attiva il desiderio, è proprio la distanza. La distanza, il fatto che tu sai che la persona è inattingibile, perché è sposata, per 100.000 altri motivi, insomma, no? Perché non ha la tua età, per tanti. Oh, a questo punto dice Flaubert, lei lo riconduceva in carrozza. Qui c'è una cosa interessantissima, stilistica, che vi faccio notare. Tutto il racconto, no, non è qui, è subito dopo. Lei lo riconduceva in carrozza, quindi stanno raccontando un'abitudine e lei lo riconduceva alla fine a casa in carrozza. quello che è strano è quello che sta per dire adesso l'autore. La pioggia frustava il finestrino. Ma come? Ma non è che la pioggia frustasse il finestrino ogni volta? No! Come vi spiegate questo imperfetto? Cioè, sta raccontando un rito. Avviene questo, lei lo guarda, lei lo cerca, lui la guarda, lei lo riaccompagna a casa, la pioggia frustava il finestrino. Questa è una finezza. In realtà dovrebbe dire che una volta o più volte, tornando in carrozza, ci fu una pioggia. E la pioggia frustava quel punto il finestrino. Ma questo fatto di non dirlo fa sì che un episodio di una o più volte viene assorbito nella consuetudine di sempre. D'accordo? Perché? Perché? Perché è importante questo dettaglio, che la pioggia frustava il finestrino, al di là del dettaglio stesso. È importante perché la pioggia che frusta il finestrino ci dà un'idea di riparo, di intimità. Tutti sappiamo perfettamente quanto è dolce stare con l'essere amato a letto quando piove. Quando piove d'inverno, no? In una notte d'inverno. Ecco, tutti i vostri amanti avete un'esperienza precisa in questo senso. Abbracciati nel letto mentre la pioggia di fuori arriva, la pioggia, il freddo, le intemperie, e voi state al calduccio del letto. Questo direi che sposati e single hanno un'esperienza del genere, perché se uno non ha nessuno, perlomeno sta con se stesso. Chi fa da sé, fa per te. Posto di single, chi fa da sé, fa per te. Che malinconia. Oppure sapete cosa si dice alle ragazze quando sono state piantate? Non ti meritava. Oppure si dice meglio soli che male accompagnati. Ma ti mangi le mani all'idea, ma vorrei essere male accompagnato, porca miseria. Quindi la ragione per cui usa questo dettaglio di una volta o più volte per una condizione generale è proprio per dare l'idea invece del fatto che loro erano due lì in carrozza serrati, stretti, l'uno all'altro. L'uno all'altro. Ecco, perché vedete, quello che dovrebbe mettere bene in evidenza è questo, che il grande problema dell'amore è quello del passaggio dal due all'uno. No? Dal due all'uno. Vi ho mai parlato di questo? Cioè due persone vorrebbero diventare uno, per questo che uno ha un rapporto sessuale con l'altra persona, vuole entrare dentro, quindi vuole diventare uno, ma se l'altra persona diventasse te sarebbe terribile, no? Sarebbe terribile. Pensi se lei a un certo punto fa l'amore e si trova con se stesso, con gli occhiali, con gli stessi occhiali, io dico oddio, ma sono gli stessi occhiali, sì. Lo stesso naso, la stessa bocca sarebbe terribile. Quindi noi vogliamo l'unità nell'amore, ma al tempo stesso mantenendo rigorosamente la duplicità. Ecco perché una delle più grandi follie della Chiesa Cattolica è quella che parla, come vi ho detto più volte, dell'essere uno nella stessa carne, ma neanche per sogno. Io voglio che la tua carne rimanga la tua, che è molto meglio della mia. Insomma, hai capito cosa voglio dire? Ho reso l'idea? Dica di sì? Sì. Allora, e restava ancora una buona ora nella camera. Guardate questa finezza maliziosa. Una buona ora. Cioè, è chiaro che se andava lì poi facevano l'amore, no? Erano persone che facevano l'amore a comando perché erano giovanissimi come voi, che potete farlo 100 volte al giorno. Ma questa buona ora è la malizia, no? Non un'ora, ma una buona ora. Un'oretta. E abbiamo già commentato il fatto che lei voleva la muove, eccetera. Adesso voltiamo la pagina e prendiamo il capitoletto 36, a breve, molto breve, che comincia non da un capoverso, ma sopra il capoverso il reconnu alors, andate 5 righe sopra, siamo? E trovate un soir même, elle se présenta tout à coup en grande toilette de bal. L'avete trovato? Bene. E stiamo sempre raccontando quello che capita a Madame d'Ambroise con lui. Allora, dovete sapere questo. L'amore si costruisce diversamente negli uomini e nelle donne, nel senso che ha dei tempi diversi. Nei tempi diversi. La donna si infuoca più lentamente, ma poi il calore se ne va via dopo. Cioè ce ne vuole di più, sostanzialmente. Ecco, stiamo sempre parlando di casi normali, naturalmente. Ecco. E quindi lei pian piano prende gusto a tutto questo, quest'idea di avere un uomo giovane per lei, forse un grande amore, e quindi lei è sposata, quindi devono mantenere tutte le cautele, che dico l'America adesso, che bello, devono mantenere tutte le cautele necessarie, e lei si presenta però con una toilette da ballo. Toilette da ballo, parla da sopra, no? Immaginate Adriana che viene qui a lezione, prendo sempre Adriana che gentilmente si presta, vestita con una lussuosa toilette da ballo, le perle nei capelli, anziché questo fiorellino di plastica che non è un granché, diciamo così. Questo passa il corretto, giustissimo, non mi risposta, ma chiamo di una straordinaria bontezza il fiorellino che ha in questo momento per i capelli, ci ho detto, avviene, ci ho detto, una sera si presentò tutta un tratto con grande toilette da ballo, e queste sorprese potevano essere pericolose, e lui la biasimò della sua imprudenza, ella gli dispiacque del resto. Il suo corsetto aperto scopriva troppo il seno magro. Riconobbe allora che si era, quel che si era nascosto, la disillusione dei sensi. Non fingeva nemmeno grandi ardori, ma per sentirli aveva bisogno di evocare l'immagine di Rosanette o di Madame Arnoux. Questa atrofia sentimentale gli lasciava la testa interamente libera e più che mai ambiva un'alta posizione nella società. Poiché aveva un simile trampolino, era il meno da fare, il meno che potesse fare era servirsene. Il titolo del capitoletto, numero 36, è Il seno magro. Allora lei va con questa toilette. Ora, voi sapete che, insomma, ci sono molte persone che per motivi di euforia, per motivi di desiderio, spesso non valutano l'effetto che il loro corpo può fare sull'interlocutore. Io ho conosciuto nella mia vita, mi ricordo, c'era quando ero all'università, una mia compagna, con cui avevamo una piccolissima contubernalità, si andava al cinema, eccetera, una volta rimasi atterrito perché vidi il fatto che era d'estate, mi ricordo perfettamente, e aveva un vestituccio bianco, che scopriva un décolleté sconvolgente, un'assenza mallarmeana di seno. Direi che era, non esiste, sembrava che il seno fosse un posto sulle spalle, perché aveva due la luce da scogliosi. Tu la luce da scoprire, ma davanti non c'era assolutamente niente. Io rimasi così atterrito durante questo cinema, perché pensavo che poi a un certo momento c'era Barberini. Sapete dov'è il cinema Barberini? Non lo sapete. Era il cinema Barberini, d'estate c'erano 42 gradi di fuori, una cosa un pomeriggio era, mi ricordo a un certo momento, questa assenza di sera mi sconvolse, non è possibile che io debba stare al cinema. Andiamo! Abbia con una rabbia di questi dice caro Dio, a un certo punto entrai in una furia come quelli che avete visto, prese e me ne sono andato scusandomi poi dopo, eccetera. Questo vasto seno magro come un affare da una parte e a dopo 10 centimetri dall'altra parte un'altra protuberanza, tutto questo lo tuba ma un seno magro può darti il cattivo umore. Una sera si presentò con grande attenzione e il corsetto mostrava il seno magro. E allora lui pensò alla disillusione dei suoi sensi e non fingeva più ardori. La cosa che poteva fare era ricordarsi di donne che aveva amato. E quando si comincia ad amare, ascoltate bene, ad amare per metafore, in modo traslato, cioè io amo Paolo, effettivamente, ma in realtà amo Lucio, quando si cominciano a fare questi giochetti è terribile, perché finché Lucio mi rimane fisso nella testa, allora il giochetto funziona, ma quando Lucio non è più fisso nella testa, allora Paolo mi si manifesta in tutta la sua pochezza, in tutto il suo nulla, capite? Ecco, quindi, diciamo così, bisogna usare con grande sapienza la retorica nelle cose d'amore. Bisogna cercare di rendere, questo discorso che sto facendo mi piace moltissimo. Bisogna cercare, bellissimo questo, bisogna cercare di rendere l'oggetto d'amore un completo oggetto. Avete capito? Un completo oggetto. Quello che in analisi logica si chiama completo oggetto. Questa atrofia sentimentale, atrofia, lo sapete benissimo cosa vuol dire quando non c'è una crescita. Questa secchezza sentimentale in cui lui si trova gli lasciava la testa libera. Ecco, esattamente quello, come fa notare Flaubert, che non ci deve essere in amore. In amore non bisogna avere la testa libera. Perché uno quando è sposato si distrae spesso, si distrae perché la moglie o il marito non gli importa più e la sua testa è libera. Come fa uno a stare a tavola con la moglie o il marito, come avete visto in centinaia di occasioni, nei ristoranti, eccetera, eccetera, con il marito che legge la Gazzetta dello Sport, il Corriere dello Sport, no? La televisione, in fondo, è spettatrice, la televisione è spettatrice delle più incredibili non comunicazioni coniugali. I due guardano la televisione e non parlano con se stessi. I due vanno al cinema e guardano il film, ma non parlano con se stessi. Quando si è innamorati non bisogna avere la testa libera. Se uno ha la testa, ecco questa regola. Se uno ha la testa libera vuol dire che non è innamorato. Questa è una frase da scrivere. Se uno ha la testa libera vuol dire che non è innamorato. Questa è una frase, una bella frase. Dunque, andiamo oltre, giriamo. 1, 2, 3, 4, 5, aspetti, vi faccio contare che sono tra 1, 6, 7, 8, 9, 9, 9, dunque. E dovrebbe essere il capoverso che inizia bourgeoise déclassée è la dove la vie de ménage. Avete trovato? 400? Allora, cosa ha detto non vale? Non lo so, è una osservazione che fa all'altra. Non lo so, ha detto che uno se è innamorato non ha la testa libera. Ma ti chiedevo se vale entrare, se una la testa libera è veramente innamorato? Se la testa libera non è innamorato. Ma se la testa libera è una persona che si è innamorato? No, credo di essere stato sempre. Se tu sei innamorato non hai la testa libera. No, tutto qua. Tu devi chiedere a una persona. Paolo ha la testa libera? Sì, vuol dire non è innamorato. Questo è il punto, no? Se marito e moglie avessero dopo 30 anni di matrimonio la testa non libera, vuol dire l'uno con l'altro, vuol dire che sarebbe l'uno. Allora, a questo punto voi avete compreso com'è la situazione? Ve la riassumo, giovani. Rosanette è incinta. Chiaro il punto? Rosanette è incinta. Madame d'Ambrose è una possibilità per lui di sistemazione sociale, ma tenendo conto che Madame d'Ambrose, attenzione, ha un marito. Cosa? È morto. No, ma ancora! al tempo, al tempo sta per morire, sta per morire, e poi a un certo momento sembra riacquistare una straordinaria salute, ma poi muore. Ma poi muore. E a questo punto la situazione cambia da così a così. Perché da una parte c'è Rosanette con il bimbo nascituro, dall'altra parte c'è Madame d'Ambrose con soldo. Capito cosa voglio dire? Avete afferrato il concetto? Voi cosa avreste fatto, i maschi qui presenti? Che avrebbero? Prendiamo un ragazzo di manifesta bontà e intelligenza. Un nome a caso. Matteo. Da una parte c'è una ragazza che lei ha messo in cima. Dall'altra parte c'è una donna, non una ragazza, che ha un sacco di soldi dal marito che ha ereditato. Che farebbe? Una cosa per ringraziarmi tutti quanti, scelgo il bambino. Che bello. Fanno venire piangere i coglioni. Però è una bella frase, ovviamente. Sì. Con le mie responsabilità. Con le mie responsabilità. Bello, che bravo ragazzo. Che bravo ragazzo. Oh, noi però non consideriamo ancora quello che succederà, ve l'ho semplicemente preannunciato per farvi gustare come in una sorta di antipasto quello che vi dirò domani, se non sbaglio, sulla morte di, inutile dire, quando c'è una morte di mezzo, che fa Robert? Impazzisce, non gli par vero di descrivere un cadavere. Descrivere un cadavere è come se uno gli facesse una carezza, insomma, avete capito? Descrivere la cosa più meravigliosa del mondo, no? Perché la carne che si sfa, il sangue, la putredine, insomma, il meglio è quello. Ma non andiamo ancora lì. Questo ce lo riserviamo come bocconcino per domani. E poi vedremo quello che succede dopo la morte. Dico soltanto questo, perché questo mi preme dirvelo, che quando lui è morto, i soldi, voi non avete idea quanto siano importanti i soldi, non avete idea, chi ha capito tutto è Berlusconi, questo è il punto sostanziale, porca miseria, e chi stavo parlando? I soldi, no? E quando parlo dei soldi? Del morto. Ma no, adesso aspettate un secondo, no? E quando lui chiede a lei, dice, soffre, alla vedova, cadavere caldo, e lei risponde, soffro, non per niente. Ma suo marito è appena morto, l'hai amato, l'hai guardato, eccetera, soffro, non per niente. Grandioso. Pensate alla differenza di sincerità fra lei e Matteo. Tra lei e Matteo. Qui invece quello che vediamo è che Rosanette si appresta a fare la donnina di casa. Perché Rosanette con questo bambino ottiene quello che tutte le donne libere vogliono, lasciare la vita. Finalmente, dopo essere passata da un letto all'altro, avere una casetta. E poi non dimenticate che non c'è nessuno più temibile delle piccole borghesi. Nessuno, guardate Rosanette che cosa fa. Quindi D'Ambrose e la morte di D'Ambrose lo vedremo domani. Ma guardate intanto cosa fa Rosanette. Borghese declassata. Che meraviglia questo borghese declassata. Borghese lo era, ma le condizioni che aveva vissuto l'avevano messa giù come classe, come situazione del tipo. Adorava la vita di menage, una piccola casa tranquilla, e tuttavia era contenta di avere un jour. Un jour, sapete, erano il giorno della settimana in cui si ricevevano le amiche. Voi avete le mamme che hanno un jour? No, però per esempio mia madre, che apparteneva, erano altri tempi, mia madre era parlando del 600 più o meno, e una famiglia di grande nobiltà, aveva il giorno della settimana. che io potevo moltissimo perché c'erano tutti questi pasticcini, eccetera, io aspettavo che gli artisti mangiavano moltissimo, mangiavano educatamente, dove signori impellicciate se ne andassero via, e come era chiamata la porta, io zoppavo su questi pasticcini facendone strage assolutamente. Quindi vogliono tutte le persone di alta condizione avere un jour, diceva, quelle là, parlando delle sue sigle, questo è splendido. Cioè, una, è come che io ho conosciuto una ragazza che era bullia, un modo spaventoso, una persona molto intelligente, parlando dei suoi cugini, che erano bullini come lei, perché insomma, chi fu di maggior tutto, insomma. Lei diceva, ah, i miei cugini sono dei tali cafoni. Io volevo dire, ma tu, cioè, non l'ho mai detto questo. Tuttavia era contenta di avere un giorno per le visite, diceva quelle là parlando delle sue simili, voleva essere una signora del bel mondo, e credeva di essere. E non parlò di non fumare più nel salotto, che cercò di farmi fare magro il venerdì per buona creanza. Mentiva al suo ruolo infine perché diventava seria e anzi sentite questo, prima di andare a letto lei, non fa niente, prima di andare a letto mostrava sempre un po' di melanconia, così come ci sono dei cipressi alla porta di un cabaret. Ne scoprì la causa, lui ne scoprì la causa, sognava il matrimonio anche lei. Frederick ne fu esasperato, d'altronde si ricordava la sua apparizione in casa di Madame Arnoux e poi le aveva rancore nei suoi confronti per la sua lunga resistenza. Ricordate che Rosanette, prima di arrivare al dunque, era passato molto tempo, quando lui aveva chiesto, ma come mai tu me l'hai data a cani e porci, a me invece hai tanto esitato, e lei ha detto, ma con aria svaporata, non so, ecco, questo non sapere che è, no, che è. E lui non di meno cercava quali erano stati i suoi amanti. Lei li negava tutti, una specie di gelosia lo invase e si irritò dei doni che aveva ricevuto e che riceveva, e a misura, nella misura in cui il fondo stesso della sua persona lo irritava, questo è bellissimo, quanto più si irritava per le volgarità di Rosanette, avete capito bene, quanto più si irritava per le volgarità di Rosanette, un gusto dei sensi, aspro e bestiale, lo trascinava verso di lei, illusioni di un minuto che si risolvevano in odio. Le sue parole, la sua voce, il suo sorriso, tutto era arrivato a dispiacergli di lei, i suoi sguardi soprattutto, quello sguardo di donna eternamente limpida e netta. Se ne trovava talmente esasperato qualche volta che l'avrebbe vista morire senza emozione. Ma come poter incollerirsi con lei? Era di una dolcezza disperata. Fermiamoci qui e continuiamo domani.